Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche settimana fa ho incontrato Mauro Corona per parlare di un libro che lui aveva scritto 10 anni fa e che oggi è più attuale che mai, La fine del mondo storto, edizioni Mondadori. È un racconto anche un po' fantastico in cui si immagina che improvvisamente finiscano tutti i combustibili fossili e che tutto si fermi: le centrali elettriche, le automobili, i supermercati, le caldaie che riscaldano le nostre case. Arriva l'inverno e con l'inverno arriva anche la morte su larga scala. Solo pochi sopravvivono, quasi tutti in campagna. Le città prive di tutto, prive di energia, si trasformano rapidamente in cimiteri dopo che il denaro è stato usato come combustibile e i topi come stuzzichini, diciamo così. Questa ondata di distruzione tuttavia porta con sé anche una sorta di pace perfetta tra gli uomini, una pace forzata ma pur sempre una pace fragile però che si rompe appena dopo il primo raccolto, quasi al primo chicco di grano messo in cascina. Ecco perché la prima cosa che gli ho chiesto è se quello di Corona sia un atto di accusa verso il benessere e soprattutto verso la tecnologia. Sentiamo. La tecnologia, se usata bene nell'epoca giusta come ora, se usata in maniera... è come mangiare troppo o bere troppo, ti sbronzi, ingrassi, così la tecnologia... Il problema è che non sappiamo cosa di tecnologia ci serve effettivamente per migliorare la vita, e quindi accumuliamo tecnologia e non sappiamo più gestirla e ci crea confusione, ci crea problemi. Quindi questo libro paradossalmente era una provocazione, scritto 10 anni fa, per far capire che molte volte ci circondiamo di cose inutili, perché alla fine cos'è che un uomo ha bisogno per vivere? Di tranquillità e cibo. Quindi una volta ottenuto quello, ecco, dopo si fanno altre cose, si possono leggere, camminare, invece c'è questa fretta che ci porta ad avere cose per guadagnare tempo, ma perdendolo poi gestendo queste cose. Ora io non sono contro la tecnologia, assolutamente, ma ho paura di questo drogarsi, di questo eroinomanismo di tecnologia. Questo mi fa paura, perché un ragazzino quando c'ha l'iPhone 5 vuole avere l'iPhone 5C, ma è uguale. Ecco, questo mi fa paura, l'eccesso di tecnologia che è sempre la stessa. E allora come si fanno a conciliare le due cose? Perché diciamo, nel tuo libro sembra quasi che non ci sia speranza, perché appena l'uomo riconquista un po' di benessere ricade subito nei suoi errori, come se non fosse proprio capace. È così, purtroppo è così, l'uomo non sa quando sta bene, gli sembra che gli manca qualcosa, ma basterebbe solo, è un esempio banale retorico, ma basterebbe beccarci l'influenza una sera e si capisce quando si stava bene il giorno prima che non ce l'avevamo, una miserabile influenza. Allora mandiamo a farsi benedire l'iPhone, la tecnologia, e vorremmo solo stare bene, ma ecco che quando stiamo bene non sappiamo a quante, bisognerebbe ogni minuto che passa la nostra vita, in questo momento sto bene, in questo momento sto bene. C'era un vecchio bracconiere che si ruppe una gamba, mio amico Celio, e io ero disperato perché andavo con lui, e mi disse: taci, stazi, che peccato, gli dicevo io, taci, che potevo essermene rotte due, impariamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, invece lo veniamo sempre mezzo vuoto, cercando di riempirlo con l'eccesso. Si potrebbe stare bene, accontentarci di un'automobile, di un cibo genuino, mangiare quando abbiamo fame, allora avremmo tempo libero, ma questo qui non ce lo sembra insopportabile e ci creiamo problemi e ci riusciamo benissimo. Città intelligente, che cosa ti fa venire in mente? Dove secondo te c'è più bisogno di intelligenza rispetto al modo in cui viviamo oggi, soprattutto nelle città, ma anche un po' fuori? Insomma. Beh, io vedo la città intelligente, innanzi alla prima cosa è il camminare a piedi, quando si può, per carità, quando si può. Lasciamo queste automobili, lasciamo quando possiamo, che non dobbiamo lavorare, andiamo a piedi. Poi città intelligente, vedo, ci sarebbe anche meno rumore, le fonti alternative di energia, pannelli solari, auto silenziose, un'auto elettrica, ma questo verrà se riusciamo a sopravviverci, a sopravvivere noi stessi. Una città di silenzio, di cammini, infatti io nel mio libro La fine del mondo storto non ci sono più rumori, la gente cammina e si racconta storie perché non c'è più la TV, e allora si raccontano: oggi è successo così, là, poi la storia la ingrandisce, la ripete all'amico, ci aggiunge qualcosa, diventa epica, diventa la vita epica, che poi è breve come un sogno, quindi bisogna non sprecarla. È un fatto di prenderli da piccoli? Mettiamola così. Educa a maestrare i bambini al bene, alla tolleranza, alla generosità, al perdono. Dico un verbo brutto, ammaestrare, perché forse qualcuno è anche istintivamente portato all'eccesso o al colpo d'ira, ma se lo ammaestriamo, allo stesso modo che fanno saltare un leone in un cerchio di fuoco, possiamo ammaestrare un bambino alla dolcezza, al cedere il passo, alla tolleranza, alla carità, alla generosità. Ma se noi genitori, diciamo, se il tuo compagno ti ruba il panino, vendicati. E questo creiamo una società di aggressivi. Torniamo in studio, ma solo per ringraziare Mauro Corona, salutarci e darci appuntamento a lunedì. Buon fine settimana.